fate sbagli, sempre sintonizzati su 87.9 di Radio Onda Rossa. Questa è Attica Blues, sono le 16.10 qua via dei Volsci. Oggi, come ormai ogni mese capita da un po', abbiamo ospite il nostro critico bastardo. Ciao Luca. Ciao. E allora oggi di nuovo una monografia, nel mondo del jazz, di nuovo un'etichetta. Luca, di che parliamo oggi? Oggi parliamo della Blue Note, ossia della, una delle case discografiche indipendenti più grosse e più storiche della musica jazz. Dai, yeah. E allora Luca, cominciamo subito direi con un brano che immagino venga un po' dagli inizi dell'etichetta. Eh sì, iniziamo intanto con un brano di Billie Holiday, poi spiegheremo pure perché. Lei non era un'artista, diciamo, sotto contratto, non è mai stata sotto contratto per la Blue Note. Ma la Blue Note nasce più o meno negli anni 30 comunque. Esattamente nel 1939. E infatti toccherebbe pure un attimino contestualizzare questo periodo. Infatti parliamo... Quando dicevo degli inizi, infatti poi stavo pensando, beh, effettivamente stava per là ormai 70-80 anni fa. Allora, praticamente nacque da un'idea di Alfred Lion, che era un tedesco, e che venne quest'idea in quanto nel 1900, a metà degli anni 30, eravamo in piena epoca swing, e quindi c'erano tutte queste grandi orchestre, ed era una musica praticamente leggera, ballabile, era questo il... l'andazzo che... Sì, che poi uno dei due proprietari parte, va in guerra, no? Certo. Sì, sì, allora c'è tutta la storia. C'è poi una storia di... complicatissima. Dai, ascoltiamoci il brano, allora, Billie Holiday che Vai, canta. Che una registrazione del 1953 a Colonia. Said little cute way of flirting with them eyes. They make me feel so happy. They make me feel so blue. I'm falling, I'm stalling in a great big way for you. My heart is jumping, you started something. You'd better look out, little brown eyes, if you're wise. They sparkle, they bubble. They're gonna get you in a whole lot of trouble. Oh, baby, they're nice. I fell in love with you the first time I looked into you. And you have a sad little cute way of flirting with. Ah, they make me feel so happy. They make me feel so blue. Falling, no starling, in a great big way for you. Jumping, you started something. You'd better look out, little brown eyes, if your wife's sparkle, bubble, get you in a whole lot of trouble. I'm looking for the boy with the wistful eyes. Beh, diciamo che è veramente indimenticabile ogni volta che si ascolta Billie Holiday, almeno per me, diciamo, questa voce caratteristica e graffiante. Senti, ma come mai stavi dicendo è stata scelta proprio lei a primo brano di questa monografia? Beh, intanto perché io definisco Billie Holiday la cosa più bella che l'orecchio umano possa sentire. Sì, sì, qui ci sto dentro, ci sto dentro. Lasciate forse, che è un'altra di quelle. E poi perché? Perché dunque nel 1937 a Manhattan un piccolo negozietto di dischi, la Commodore Records, cominciò a ristampare, appunto siamo in piena epoca swing, i dischi dell'hot jazz, cioè quel Dixieland nato nel 1910-1920, e quindi si formò un manipolo di appassionati che seguiva appunto e che andava contro la swinghera. Fra questi c'era appunto Alfred Lion, un berlinese sbarcato in America, che gli venne l'idea non di ristampare ma di affittare una sala di registrazione e cominciare a invitare degli artisti. Cos'è che stiamo parlando di una cosa pure abbastanza fantasmagorica negli anni 40, nel 39 per capirci, era iniziato a registrare nel 38, insomma non era come oggi che comunque ti puoi registrare le cose praticamente a casa, cioè gli studi discografici erano anche un unicum, no? Beh, immagino anche nelle grandi città dell'America, insomma. Lui si appoggiava a uno studio di una radio e l'idea geniale sua quale fu? La prima idea geniale di registrare e appunto di affittare queste sale di incisioni in orari notturni, cioè dalle 4 di notte alle 7 di mattina, cioè praticamente era l'after show, per capisse esattamente, cioè quando gli artisti finivano le loro jam session andavano in studio e lui li trattava decisamente bene. Devo dire che anch'io nel mio piccolo per anni ho fatto così, che ne so, il brano registrato con Luciano, con D'Infresa, sono sempre stati dopo gli show che si caricavano, andavamo in studio io dalle 4 di mattina, poi li riportavo a casa alle 8, casomai. E l'idea era proprio questa. Perché Billie Holiday? Perché Billie Holiday gli citofonò perché voleva appunto registrare, in quanto lui comunque offriva da bere, offriva da mangiare, insomma gli sì, faceva stare bene, soprattutto offriva alcol, cioè li faceva magnà, ma li faceva bere come si deve, per questo era famoso. Infatti poi, ma Billie Holiday era una sfattona, diciamola tutta, cioè, insomma non sì, era lo stico de santo, ma lui non se la sentì appunto di registrare in quanto non aveva i mezzi e non la fece salire. Fantastico, fantastico. Dai, allora adesso che cosa ci ascoltiamo invece? E diciamo che poi la Blue Note ha avuto il suo sviluppo iniziare all'inizio degli anni 50 in piena epoca bebop. Qui appunto ci ascoltiamo Charlie Parker in una registrazione allo Storyville. Awo. Thank you. Senti Luca, già con la puntata sulle CM alla fine non siamo neanche riusciti a suonare tutto quanto, perché poi ovviamente un'ora non è così poi tanta quando parli di queste etichette con produzioni sterminate nate appunto nel millennio scorso, agli albori, no vabbè alla fine del millennio, ma insomma no, un'ora è decisamente poco, quindi io direi di switchare un pochino di più i brani e facciamo una dinamica di tutti gli stili, essendo andata appunto dagli anni 50 in poi ad oggi, tra l'altro è ancora attiva. Big artist che ci registrano oggi, big artist. Beh, pure perché comunque diciamola tutta, è stata acquisita, mi pare, dalla Universal, dalla EMI, adesso EMI è... insomma, sì. Ed è una sottoetichetta, diciamo, utilizzata per il black in qualche modo, non solo il jazz. Diciamo che il jazz adesso alla EMI è etichettato come musica per adulti. Infatti, ecco, esattamente la definizione di musica per adulti, bravissimo, sì, sì. Nel quale poi ovviamente troviamo pure la Badu, per esempio. Non proprio. Vabbè, quasi. Ci canta, però. Sì. Non è sotto contratto con la Bruno. No, non sono sotto contratto perché appunto poi essendo una sottoetichetta ovviamente la gestione dei contratti è cambiata, ed è cambiata anche per gli artisti. Cioè molti dei grandi artisti comunque hanno delle loro etichette che poi fanno accordi con le major, che comunque si tendono a tutelare. Poi è finito quel mondo che ha visto le grandi etichette magnasse la vita degli artisti con contratti assurdi. E anche i manager, loro ebbero tanti problemi quando iniziò la figura del manager a contrattare invece dell'artista, e loro grande, si ritirarono. Grande, infatti questa è un'altra cosa, assolutamente. Va bene, senti, quindi switchiamo da Charlie Parker, che è diciamo il padre del bebop, a un'altra formazione messa questa volta sì sotto contratto dalla Blue Note, che ha fatto la storia poi della Blue Note, ossia Art Blakey con al piano Horace Silver, Clifford Brown alla tromba e Lou Donaldson al sassofono alto. Luca, ma dimmi un po', ma forse c'è lo zampino di qualcuno di cui abbiamo trattato in una delle monografie scorse? Eh sì, qua c'è proprio lo zampino di Rudy Van Gelder, che iniziò proprio da questo disco a registrare per la Blue Note, a collaborare con la Blue Note. E qua siamo negli anni 50, no? Sì, qua siamo nel 54, questa è praticamente fu scandaloso questa registrazione, in quanto riuscì a si sente proprio dall'ascolto, a portare l'ascoltatore quasi in prima fila al Birdland. Era, cioè, un ascolto fenomenale per l'epoca. Il piano sta molto dietro, sì. E ora Silver. Perché ora ovviamente siamo abituati a sentire mixaggi differenti, modi diversi di gestire il suono, addirittura ci sta il surround, quindi è ancora cambiata, si è complicata la cosa rispetto allo stereo. Però ovviamente negli anni 50 un personaggio come Rudy ha portato veramente un modo nuovo di porti nella scena musicale. E si può facilmente anche notare con il pezzo precedente, l'epoca è la stessa, solo che il qua c'è lo zampino di Rudy Van Gelder. Il suono è totalmente un altro. Cosa ci ha preparato sul piatto numero 2? Allora, siamo qua adesso, facciamo un salto di 3 anni, siamo nel 1958 e questa fu una vera scoperta di Alfred Lion. Gli fu segnalato, lui l'andò a vedere in un club e rimase letteralmente scioccato, ed ebbe uno shock forte sulla... Uno shock anafilattico, sì. Totale, sentiamolo adesso, è Jimmy Smith con I Got Rhythm. Diciamo che qua già emerge la miscellanea di stili, no? Come la musica si evolve, piano piano si contamina. Beh, qui già c'è uno strumento elettrico, sia l'organo Hammond, che fece veramente scalpore. Diciamo dal blues al country c'è di tutto. Allora, vi stiamo parlando della Blue Note, questa è Radio Onda Rossa 87.9 sulle vostre frequenze. Sì, forse ci potete ascoltare anche in streaming o comunque buttate un occhio sul nostro sito ondarossa.info. Thank you. Quanta vibes in questo strumento, mi riporta subito i Doors, mi riporta in giro in altra musica, Blues Brothers. E qua siamo i precursori, però siamo nel 1958. Eh sì, qua è da dove viene tutto. Senti, ma c'è un altro grande sull'altro piatto, dimmi un po' la storia di questa registrazione. Allora, un altro grande è ovviamente John Coltrane, che registrò un unico disco per la Blue Note, ossia Blue Train, che fece veramente storia. E la particolarità intanto della Blue Note in assoluto, era un'altra idea geniale di Alfred Lion, era quella di pagare i 2 giorni di prova precedenti alla registrazione del disco, e quindi tutti volevano andare a registrare per la Blue Note, e ovviamente il risultato finale è che si aveva un prodotto perfettamente eseguito. E qui appunto è non solo, e abbiamo pure delle tracce alternative che poi in futuro vennero ristampate e che quindi raggruppavano tutte le prove. Altri CD, certo, ovviamente non si butta niente. E per esempio questo è quello che ci andiamo a ascoltare, una traccia alternativa, non è quella ufficiale dell'album, è proprio di Blue Train, di Coltrane. Insomma, tutto questo che stiamo ascoltando viene dall'inventiva di questo Alfred Lyon, insomma già il cognome, voglio dire, Lyon si chiamava Leone, che comunque non ha aperto a Billie Holiday, quindi voglio dire, avrà fatto cose giuste, altre un po' meno. Come è entrato in contatto con John Coltrane? Qui pure, citofonò John Coltrane. Fantastico, tutti lo cercavano questo man. Sì, ma non per registrare, lui citofonò perché cercava delle incisioni di Sidney Bechet, che fece negli anni, alla fine degli anni 40, per la Blue Note, in cui suonava il soprano, che era uno strumento desueto per il jazz, e lui voleva sentire appunto queste registrazioni. E Alfred gli ha detto, vieni, ti offro un bicchierino. Esatto, insomma, se l'è un attimino così, e gli ha detto, perché non fai... Lui era libero, tra l'altro, Coltrane in quel periodo, ha detto, perché non realizzi un disco per la Blue Note? E, ma sembrava quasi accettare tutto. A un certo punto il gatto della Blue Note scappò via dalla finestra. Alfred Lyon, un segno. Alfred Lyon lo seguì, tornò poi in ufficio, recuperò il gatto, tornò e Coltrane non c'era più. Se n'era andato. Fantastico. Ma tornò a settembre di quell'anno, disse, già era sotto contratto con la Prestige, ma si ricordò di quella promessa e fece appunto Blue Train. Senti, allora ovviamente molti di questi brani durano 9 minuti, 10 minuti, però come dicevamo prima, nella logica di andare di fretta, vedo che il prossimo ne durerebbe addirittura 11. Di chi stiamo parlando? Allora, il prossimo, da Coltrane non si può che passare a Miles Davis, che non ebbe fortuna con la Blue Note, in quanto registrò all'inizio degli anni 50 degli album non memorabili, perché era un periodo di droghe, di stress, di... insomma, non un periodo ottimo per Miles Davis, che però tornò all'inizio, appunto nel 58, qui in come ospite, ed è forse l'unica apparizione ospite di un disco di Miles Davis, perché lui era Cannonball Adderley, suggerito proprio da Miles Davis di andare alla Blue Note, ed ecco qua cosa hanno fatto. Suono molto diverso, un approccio molto smooth anche alla musica. vabbè, in questo grande excursus di quelli che poi saranno diventati mostri sacri un po' in qualche modo di questa musica, vediamo chi altro è passato per la Blue Note. Eh sì, diciamo che questi sono pezzi unici, nel senso sia di Coltrane, di Miles, di Cannonball Adderley, sono registrazioni che hanno fatto solo questo disco, ma dischi veramente storici. E un'altra registrazione che loro riuscirono a catturare era un incontro veramente incredibile con al piano Duke Ellington, al contrabbasso Max, Charles Mingus, e alla batteria Max Roach. Però, questo fece veramente storia, sì, secondo me uno dei dischi, 10 dischi più belli in assoluto, e questo è proprio Caravan. Davvero un incontro inedito di musicisti, il risultato poi insomma è sotto le orecchie di noi tutti. Tra l'altro inedito neanche tanto, perché il talento di Mingus, Duke Ellington già se l'era sgamato anni prima e se l'era portato nella sua orchestra, ma a seconda prova andò a menare al trombonista e quindi fu costretto a cacciarlo dall'orchestra per la quiete vivere. Senti, ovviamente la copertina anche di questo Money Jungle, così si chiama questo disco, è bellissima. Tra l'altro è la foto che abbiamo utilizzato insomma un po' per rappresentare questa puntata, che troverete ovviamente poi sul sito insieme alle altre. Beh, quello delle copertine, delle foto, è una peculiarità proprio della Blue Note, anche diciamo una fortuna, in quanto l'amico d'infanzia di Alfred Lion, appunto Francis Wolff, era un fotografo professionista in Germania, che pare che lasciò l'ultima nave, che s'appò sull'ultima nave che lasciò la Germania in periodo nazista, e diventò socio appunto di Alfred Lion. Stiamo parlando di copertine bellissime, ovviamente noi che ce l'abbiamo avuto sotto mano tutte quante, e qua ci sta una foto di studio bellissima, bianco e nero, ma comunque anche la foto del disco di John Coltrane tutta sul blu, diciamo sono belle foto, proprio belle davvero. Sì, ma da questa foto già ti accorgi la peculiarità che aveva appunto Francis Wolfe nello scattare, ossia lui in questi due giorni di prove che precedevano, lui scattava tutto, quindi i musicisti non erano in posa come a quei tempi per fare la foto, ma erano assolutamente assorti nella loro arte, e questo si rispecchia in tutte le copertine della Blue Note. Sì, che sono veramente bellissime, alcune poi anche scene di esterni, insomma belle, belle, se vi capita di passare... Sì, anche una ricerca su Google, scrivete assolutamente Francis sì. Wolfe e vi uscirà un mondo, sì. Sicuramente. Senti, allora qua sono le 5:10 a Via dei Volsci e noi ci avremo ancora una montagna di materiale sulla Blue Note, quindi... siamo arrivati ancora agli inizi degli anni 60, diciamo in piena epoca Blue Note, da qua parte la vera Blue Note. E io rilancerei a questo punto, ovviamente adesso continuiamo, la trasmissione non è finita, ma rilancerei comunque la monografia del prossimo mese ancora sulla Blue Note. Ci mancano ancora 50 anni, sì, direi ci sì. Sai com'è, insomma con l'ECM siamo riusciti in qualche modo a stringerla, ma qua... Con la Blue Note non ci si no, riesce. No, non gliela credo. Potremmo fare. No. Senti, allora che cosa c'è sul piatto numero 2, Luca? Adesso ci ascoltiamo Lee Morgan con Way Shorter, Glenn Green, Herbie Hancock, Reggie Workman e Billy Higgins, ossia le star della Blue Note che suonavano in svariati dischi, e qui siamo nel 64 con The Joker. Sicuramente una caratteristica, cioè sono varie le caratteristiche della Blue Note, appunto le foto, ma soprattutto mettere a proprio agio gli artisti, il discorso di pagare le prove, e poi ecco, diciamo che anche era anche famoso veramente l'accoglienza dal punto di vista di alcol, di cose da mangiare, di tutto. Lui era veramente un appassionato e si distingueva dagli uomini d'affari che invece governavano le case discografiche a quell'epoca e anche pure oggi, direi. Beh, diciamo che già oggi ci sta un po' più di tutto in giro, forse allora che erano anche meno le possibilità anche di registrare. Sì, erano per forza grosse, ecco, c'era che fare. Musicista musicisti super rodati, come si può sentire da come entrano in questo brano a rotazione, veramente geniale. E questa qui è proprio l'altra caratteristica, era appunto quella di avere una scuderia di musicisti da mettere a disposizione del solista. In genere erano sempre tre fiati, due tre fiati non mancavano mai, e questi erano appunto loro. Questo brano meritava di essere ascoltato fino alla fine, perché veramente da qua si evidenziavano tutte le cose che avevamo detto prima, le prove, i musicisti, cioè un arrangiamento e una sincronia, un tempismo veramente eccelsi. Questa è la perfezione, diciamo, ed è anche l'inizio dello stile hard bop che proprio la Blue Note rappresentava, e nacquero anche le prime hit. Eccola qua, Watermelon Man, lui è Herbie Hancock. Poi diciamo che in varie delle monografie che abbiamo fatto fino adesso abbiamo parlato di realtà cominciate veramente negli anni 30, negli anni 20, negli anni 40. Ovviamente c'è sia la novità del registrare, quindi lo studio, la dinamica del suono, il fonico, la figura del fonico, una cosa proprio assolutamente nuova. Il meccanismo degli studi di registrazione, come dicevi prima, che casomai Alfred Lion andava negli studi delle radio perché erano poi gli unici effettivamente, io non lo so questa cosa, ma immagino che negli anni 40 non ci fossero gli studi di registrazione, cioè ci fosse chi aveva gli studi come le radio e forse dopo la televisione, ma prima c'era stato il boom della radio che poi ovviamente per arrotondare affittavano anche. Beh, magari le grosse case tipo la Columbia, la Savoy ci avevano i loro studi, ma sì, ma parliamo di proprio casi isolati. E ovviamente siamo immersi in quegli anni in una serie di passaggi tecnologici, cioè noi oggi pensiamo all'MP3, ma le cose sono cambiate anche tra il 30 e il 40, tra il 40 e il 50, cioè ovviamente si passa dai 78 giri che erano fatti di... erano in gomma lacca fino alla fine degli anni 40, in cui uscirono i vinili a 33 giri. Il vinile, quindi il 33 giri, il 45 giri, ma le novità non sono solo queste, anche il nastro magnetico. Il nastro magnetico, esatto, al posto della matrice. E cioè quindi... sono proprio nuovi metodi e ovviamente anche queste realtà che iniziavano a svolgere l'attività in modo continuativa e quindi per lavoro, cioè abbiamo visto che anche l'ECM andava a registrare negli Stati Uniti molto, ovviamente molto in Nord Europa, pure a Oslo, nelle chiese, chiese, poi lui aveva, insomma, tutto un modo particolare per, sì, però anche là queste tecnologie poi ovviamente dovevano, cioè ci doveva essere l'aggiornamento tecnologico che richiedeva spese, insomma, non indifferenti. Esatto, e proprio il carattere amatoriale della Blue Note spesso ne risentiva. Infatti, per esempio, la nascita, appunto, il passaggio dai 33 giri e quindi la nascita dell'alta fedeltà avvenne nelle cose discografiche intorno alla fine degli anni 40. La Blue Note passò solo nel 1951. Ci vogliono soldi, tempo, insomma. Poi immagino queste persone erano veramente dei personaggi che loro si intrippavano come oggi ci si intrippa, non so, col computer è cambiato, con i grossi mixer a secondo di dove si trova, e quindi poi ovviamente quando ti ritrovi che esce una cosa nuova ti serve, capito, una somma grossa casomai per esatto, ma esatto, proprio necessitavano di sforzi economici che loro non si potevano permettere in quanto appunto erano due soci. E poi non solo, anche il discorso, come diciamo prima, no, questa che ci stiamo ascoltando è una delle sue hit, una delle hit delle Bruno. Ovviamente poi c'è un passaggio anche a livello da amatoriale, nel senso da per passione, a quando diventi un professionista rinomato nel mondo della musica, e quindi ovviamente devono cambiare gli standard, non devi più farci lecca, cioè non è che fai più 10 album casomai così per farli, ma ci devi stare più attento anche a quello che fai uscire. E lì iniziarono i problemi della Blue Note, ossia alla metà degli anni 60. Ma ne riparleremo, penso, la prossima puntata. Sì, ne riparleremo la prossima puntata. Non so se vuoi comunque brevemente, la vogliamo accennare, la storia della Blue Note fino ai giorni d'oggi. Come abbiamo detto, la prossima puntata ricominceremo più o meno dagli anni 60. Sì. Quando poi ci sta un momento un po' di stanca, no? Scende un po'. Cambia pure il jazz, cioè si ha l'avanguardia, ossia il free jazz, e quindi l'abbandono al blues, al gospel, alla schiavitù, per avere una musica più metropolitana, più attuale. E la Blue Note ovviamente non era preparata ancora a questa rivoluzione. Senti, ma infatti poi la vera, diciamo, esplosione del fenomeno Blue Note arriva proprio dall'acquisizione da parte della major, in qualche modo, no? Eh sì, a metà degli anni 80 la EMI rilevò tutto il patrimonio della Blue Note e ristampe. Perché Alfred Lion se ne va. Alfred Lion alla metà degli anni 60 se ne va. E Francis, il fotografo muore alla fine degli anni, all'inizio degli anni 70. E quindi poi ci fu un avvicendamento. Quindi ovviamente la EMI acquisisce anche tutte le registrazioni che dicevamo di questi due giorni di prove, quindi una montagna, una valanga di tra l'altro, proprio negli anni 80, che era il periodo in cui nacquero i CD anche, quindi ci fu un'altra rivoluzione tecnologica, Michael Coscuna, che era appunto il boss della EMI, si ritrovò con tutte queste bobine, tutti questi nastri, che però non c'era scritto assolutamente nulla. Lui non sapeva dove andare a reperire le informazioni, anche perché magari riconosceva un musicista, quindi magari poteva andare a chiedere a quel musicista, ma era morto, quindi niente. Però gli venne in soccorso una casa indipendente giapponese che aveva cominciato a ristampare, si era fatto mandare tutte, aveva tutte le informazioni proprio da Alfred Lion, e quindi riuscì a recuperare tutte queste informazioni. Ah, vedi, c'è anche una sorta di spionaggio, no, musicale. Beh, in questo caso un aiuto, un più aiuto, sì, sì, sì. Vabbè, insomma, questi giapponesi, ovviamente i giapponesi poi ancora oggi nel mondo della musica hanno un'attività fervente, cioè ci sono gli appassionati, non lo so, che devo dire, del metal, e li vedi tutti metallari, e c'è un mondo di metallari pazzeschi, sì, c'è un... uguale con reggae, non lo so, con la soca, con latino, con il fenomeno jazz. Di collezionismo che sì, fa, sì, spavento, poi, insomma, veramente. Ovviamente ce lo immaginiamo, il giapponese anche con la moneta forte, quindi acquisti continui, ristampe in loco. Sì, ma loro sono veramente delle star, sì, quando vanno a suonare in Giappone sono veramente delle star. Senti, io direi di suonare un ultimo uno o due brani e di rimandarci poi all'appuntamento del prossimo mese, sempre sulla Blue Note. Adesso che cosa ci andiamo ad ascoltare? Cioè, adesso siamo negli anni 60, siamo già arrivati negli anni 60? Dunque, adesso siamo alla fine degli anni, all'inizio degli anni 60, sì, ossia con Sonny Rollins, che era veramente una star, che registrò alcuni brani, non era un artista Blue Note, però registrò alcuni brani appunto alla Blue Note, con J.J. Johnson, con Thelonious Monk, Paul Chambers, Art Blakey. Questo è proprio Misterioso di Thelonious Monk. diciamo che la Blue Note, almeno rispetto all'ECM, è più localizzata geograficamente, no? In un posto dove era la sede proprio effettiva. Eh sì, questo è proprio il sound di New York, è proprio New York. New York style, la mela, eccoci qua. Ma senti, a questo punto mi viene spontanea la domanda. Noi abbiamo fatto una puntata sul Village Vanguard, dove appunto abbiamo visto gli artisti suonavano per un'intera settimana, quindi c'era una possibilità anche di replica, di vederlo più volte. Ma in qualche modo erano sempre gli stessi artisti. Immagino che casomai venivano a New York e stavano un mese, allora una settimana stavano al Village Vanguard, 3-4 giorni se li passavano alla Blue Note, certo, a registrare. Poi alla fine... e Rudy Van Gelder registrava tutto. Fantastico. Allora sono le 5.10 qua a Via dei Volsci, Attica Blues Bolge al termine. Non vi preoccupate, ascoltatori della Schiena del Sol, che ci sta qua con una montagna di ospiti pronto ad andare in onda. Noi ci prendiamo il tempo per un ultimo brano, più che altro per anticipare un po' quello che sarà la monografia del mese prossimo, sempre sulla Blue Note. Quindi andiamo a sentirci un pezzo degli anni, Luca. Sì, qua siamo proprio negli anni 90, 1990, e loro erano due star della Blue Note, appunto. Uno è Chick Corea al piano e l'altro è Bobby McFerrin alla voce. Anni 90 style, Blue Note, questa è Radio Onda Rossa. Luca, facciamo un saluto a tutti e a tutti. Ci sentiamo il mese prossimo. Eh sì, dai. Adesso decidiamo il giorno, dai. Bella, bless. Ciao, ciao, ciao, ciao.